Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Si avvicina la data del Capodanno e per il quinto anno consecutivo la Caritas di Padova e la Pastorale dei Giovani organizzano una proposta alternativa, una giornata intera di servizio accogliente e divertente. Come negli anni scorsi, sarà una specie di Capodanno diffuso dove piccoli gruppi di volontari animeranno diverse realtà del territorio con attenzione alle caratteristiche di ogni realtà e del gruppo che anima, e poi una super festa finale nel quella che è considerata, diciamo, la base, il campo base, nella palestra del seminario minore di Rubano. Le iscrizioni sono aperte ancora per alcuni giorni fino al 27 di dicembre. Momento d'inizio è già dalle 9 del mattino: accoglienza, colazione, conoscenza e formazione, il pranzo condiviso e poi queste feste, queste occasioni di animazione, diverse realtà della città di Padova nel pomeriggio fino all'ora di cena. Il rientro, la condivisione e l'animazione e poi il brindisi condiviso. Per le informazioni e le iscrizioni basta andare sul sito caritaspadova.it e cliccare su Capodanno Caritas. Al microfono di Paolo Sartore di Telechiara sentiamo Giorgio Pusceddu di Caritas Padova. Giorgio, perché un ragazzo dovrebbe passare un Capodanno in maniera così diversa? Per tanti motivi. Perché ci divertiamo un mondo, perché è un'occasione per incontrare alcune realtà che solitamente nella vita di tutti i giorni non incrociamo, e perché nel pomeriggio diamo una mano a portare un po' di festa in questi posti, e perché siamo in tanti e la maggior parte tutti giovani, e quindi insomma il clima è molto frizzante, e tanti altri motivi, però questi, diciamo, sono i principali. È un'esperienza in crescita, stiamo arrivando alla sesta edizione, numeri soprattutto in crescita. Questo vuol dire che i ragazzi hanno bisogno anche di proposte di questo tipo. In Caritas evidentemente avrete fatto la verifica di questo, se si propone qualcosa di alternativo ma significante, i ragazzi rispondono. Sì, sicuramente i numeri parlano chiaro e dicono che è una proposta che interessa. Interessa tanti tipi, diciamo, di motivazioni diverse, sia chi vuole effettivamente fare un Capodanno diverso, chi cerca chi segue il gruppo, chi cerca un'esperienza di festa un po' particolare. Insomma, ognuno viene con la sua storia. Noi accogliamo chiunque, perché il bello di questo Capodanno, ecco, questo è un dato che ci sorprende ogni volta quando facciamo la verifica, è che confluiscono tante ricchezze diverse. Ognuno porta le sue motivazioni, la sua storia, il suo perché lì, e si forma un'alchimia che finora è stata sempre esplosiva. È un'esperienza che tu hai vissuto. Con cosa si esce da un'esperienza così? Si esce con una consapevolezza, che è quella che anche io posso fare sorridere qualcuno, posso dare il mio piccolo contributo, ma senza grandi magie, proprio semplicemente con la mia presenza, e si esce con la conoscenza, ecco, questa è un'altra cosa, di persone, volti, realtà che trasmettono umanità, ecco, non so se... E alle persone che incontrate, che possono essere disabili, anziani, profughi, un'umanità estremamente diversa, le persone che vi incontrano, che andate a trovare, con le quali fate festa, che cosa vi fanno capire che ricevono? In verità è il contrario. Quando uno va via, un'altra cosa è questa, che uno va con l'idea, insomma, di dare qualcosa, ma va via convinto di aver ricevuto di più. E quindi alla fine relazioni, questa è la parola che è il minimo comune denominatore di tutte le esperienze, perché alla fine andiamo a incontrare queste persone. Però ripeto, chi esce dal Capodanno, il 99,9% dice: ma io pensavo di dare, in verità ho ricevuto più di quello che ho dato. E questo è il bello, no, delle esperienze di incontro come queste. Grazie a Giorgio Pusceddu di Caritas Padova, Paola Sartori di Telechiara che ha realizzato l'intervista. Allora ricordo, iscrizioni aperte fino al 27 di dicembre per questo Capodanno Alternativo, quinta edizione promossa proprio dalla Caritas di Padova e dalla Pastorale dei Giovani. Un'intera giornata e poi la serata insieme da condividere per un Capodanno davvero diverso dal solito. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.